Ma questo non durò che pochi mesi e ben presto tutto cambiò da cima a fondo. Forse perché la vita sociale di Gilberte doveva presentare gli stessi contrasti di quella di Swann? In ogni caso, Gilberte era solo da poco tempo marchesa di Saint-Loup e subito dopo, come vedremo, duchessa di Guermantes, quando, raggiunto quanto ci fosse di più eccezionale e difficile, pensando che il nome Guermantes fosse ormai incorporato nella sua persona come uno smalto mordoré e che chiunque decidesse di frequentare sarebbe rimasta per tutti la duchessa di Guermantes, il che era un errore, giacché il valore d'un titolo nobiliare come quello d'un titolo azionario sale quando lo si richiede e cala quando lo si offre. Tutto ciò che ci sembra imperituro tende alla distruzione. Una posizione mondana, come qualsiasi altra cosa, non è creata una volta per tutte, ma, come la potenza d'un impero, si ricostruisce ad ogni istante con una sorta di creazione continua, perpetua, e ciò spiega le apparenti anomalie della storia mondana o politica nel corso d'un mezzo secolo. La creazione del mondo non è avvenuta al principio, avviene tutti i giorni. La marchesa di Saint-Loup si diceva «sono la marchesa di Saint-Loup». Sapeva d'avere rifiutato il giorno prima tre pranzi in casa di duchesse, ma se, in una certa misura, il suo nome innalzava l'ambiente infinitamente poco aristocratico che la marchesa riceveva, questo, con un moto inverso, deprezzava il nome che lei portava. Niente resiste a moti del genere. I nomi più grandi finiscono col soccombere. Swann non aveva forse conosciuto una principessa della casa di Francia il cui salotto, dato che vi era messo chiunque, era caduto all'infimo rango? Un giorno che la principessa Delhomme era passata un istante per dovere da quell'altezza, dove non aveva trovato che gente da nulla, arrivando poi da Madame Leroy, aveva detto a Swann e al marchese di Modena: «Finalmente mi ritrovo in un paese amico. Vengo da casa della contessa di X. Non c'erano tre facce conosciute». Condividendo, insomma, l'opinione di quel personaggio d'operetta che dichiara «il mio nome mi dispensa, credo, dall'aggiunger parola», Gilberte si mise ad ostentare il suo disprezzo per ciò che aveva tanto desiderato, a dichiarare che nel Faubourg Saint-Germain erano tutti idioti, infrequentabili e, passando dalla parola all'azione, smise di frequentarli. Persone che l'hanno conosciuta soltanto dopo e, debuttando in casa sua, l'hanno sentita, questa duchessa di Guermantes, farsi comicamente beffe della gente che così facilmente avrebbe potuto frequentare, non ricevere una sola persona di quell'ambiente e se una di esse, magari la più brillante, s'avventurava da lei, sbadigliarle apertamente in faccia, arrossiscono retrospettivamente d'aver potuto loro attribuire qualche prestigio al gran mondo. E non oserebbero mai confessare il segreto umiliante delle loro passate debolezze a una donna che credono da sempre incapace di capirle a causa d'una sostanziale elevatezza di natura. La sentono schernire con tanta verve i duchi e la vedono, cosa più significativa, mettere il suo comportamento in così completo accordo con il suo scherno. Non pensano certo ad andare a cercare le cause dell'accidente che di Mademoiselle Swann fece Mademoiselle de Forcheville e di Mademoiselle de Forcheville la marchesa di Saint-Loup e poi la duchessa di Guermantes. Forse non pensano neppure che tale accidente servirebbe, con i suoi effetti non meno che con le sue cause, a spiegare l'atteggiamento ulteriore di Gilberte, giacché la frequentazione dei plebei non può essere certo concepita nello stesso modo da Mademoiselle Swann e da una dama che tutti chiamano signora duchessa e le duchesse che tanto l'annoiano, cara cugina. Si disprezza volentieri una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è raggiunta in modo definitivo. E questo disprezzo ci sembra connaturato nelle persone che ancora non conosciamo. Forse, se potessimo risalire il corso degli anni, le vedremmo lacerate, più freneticamente di chiunque altro, dagli stessi difetti che sono riuscite a mascherare o a vincere in modo così completo che le stimiamo incapaci non solo d'esserne se stesse colpite, ma persino di perdonarli negli altri, data la loro incapacità di concepirli. D'altronde il salotto della nuova marchesa di Saint-Loup prese ben presto il suo aspetto definitivo, almeno dal punto di vista mondano, perché vedremo quali scompigli dovevano, per altri versi, imperversarvi. Tale aspetto era sorprendente in questo. Ci si ricordava ancora che i più maestosi, più raffinati ricevimenti di Parigi, altrettanto brillanti di quelli della principessa di Guermantes, erano quelli di Madame de Marsan, la madre di Saint-Loup. Negli ultimi tempi, d'altra parte, il salotto di Odette, di rango infinitamente meno alto, non era stato meno splendido per lusso ed eleganza. Ora Saint-Loup, felice d'avere, grazie al patrimonio della moglie, tutti gli agi che poteva desiderare, non pensava che a starsene tranquillo dopo un buon pranzo a cui qualche artista veniva a fare della buona musica. E quel giovane che era parso un tempo così fiero, così ambizioso, invitava a condividere il suo lusso certi compagni che sua madre non avrebbe ricevuti. Gilbert, dal canto suo, metteva in pratica la parola di Swann: «La qualità mi importa poco, ma temo la quantità». E Saint-Loup, molto sottomesso a sua moglie, e perché l'amava, e perché era proprio a lei che doveva tutto quel lusso, si guardava bene dal contrariare quei gusti tanto simili ai suoi. E così i grandi ricevimenti di Madame de Marsan e di Madame de Forcheville, dati per tanti anni, soprattutto in vista della sistemazione in grande stile dei rispettivi figli, non condussero ad alcun ricevimento del marchese e della marchesa di Saint-Loup. Avevano i più bei cavalli per andare assieme a cavallo, lo yacht più bello per fare delle crociere, ma non ci portavano più di due invitati. A Parigi avevano ogni sera a pranzo tre o quattro amici, mai di più. E così, con una regressione imprevista e tuttavia naturale, ciascuna di quelle due immense voliere materne era stata sostituita da un nido silenzioso. La persona che trasse minor giovamento da quelle due unioni fu la giovane Mademoiselle d'Oloron, che, già colpita dal tifo addominale il giorno del matrimonio religioso, si trascinò a stento in chiesa e morì poche settimane dopo. Nella lettera di partecipazione inviata poco dopo la sua morte, nomi come quello di Jupien si mescolavano a quasi tutti i maggiori d'Europa, come quelli del visconte e della viscontessa di Montmorency, di Sua Altezza Reale la Contessa di Bourbon-Soissons, del Principe di Modena Este, della Viscontessa di Edumea, di Lady Essex, eccetera, eccetera. Anche per chi sapeva che la defunta era la nipote di Jupien, il numero di queste grandi parentele non poteva certo sorprendere. Tutto sta, in effetti, nell'acquisirne una. Allora, entrando in gioco il casus federis, la morte della piccola plebea fa prendere il lutto a tutte le principali famiglie d'Europa. Ma molti giovani appartenenti alle nuove generazioni e all'oscuro delle situazioni reali, oltre a poter scambiare Marie-Antoinette d'Oloron, marchesa di Cambremé, per una dama del più alto lignaggio, avrebbero potuto commettere, leggendo quella lettera di partecipazione, parecchi altri errori. Così, per poco che le loro escursioni attraverso la Francia avessero fornito loro qualche conoscenza del paese di Combray, avrebbero potuto non provare alcuno stupore vedendo che Madame L. de Méséglise e il conte di Méséglise partecipavano fra i primi e vicinissimi al duca di Guermantes. Méséglise e Guermantes sono confinanti. Vecchia nobiltà della stessa regione, forse imparentata da generazioni, avrebbero potuto dirsi, chissà, forse un ramo dei Guermantes a portare il nome dei conti di Méséglise. Ora, il conte di Méséglise non aveva niente a che vedere con i Guermantes e non faceva nemmeno parte del lato Guermantes, bensì del lato Cambremé, dato che il conte di Méséglise, rimasto per due soli anni grazie a un rapido avanzamento Le Grandon de Méséglise, era il nostro vecchio amico Le Grandon. Falso per falso, quasi nessun altro titolo sarebbe potuto riuscire più sgradito ai Guermantes. Erano stati imparentati in altri tempi con i veri conti di Méséglise, dei quali non restava ormai che una donna, figlia di gente oscura e decaduta, e sposata a un grosso fittavolo arricchito di mia zia, che le aveva comprato Mirougrain e che, Ménager di nome, si faceva chiamare adesso Ménager de Mirougrain. E così, quando si diceva di sua moglie, che era una di Méséglise, si pensava piuttosto che fosse nata a Méséglise e fosse di Méséglise così come suo marito era di Mirougrain. Ogni altro titolo falso avrebbe dato meno fastidio a Guermantes, Ma l'aristocrazia sa accettare queste cose, e ben altre ancora quando si è in gioco un matrimonio ritenuto da un qualsiasi punto di vista utile. Coperto dal duca di Guermont, Le Grandin fu per una parte di quella generazione e sarà per l'intera generazione successiva il vero conte di Méséglise. Un altro errore ancora nel quale un giovane lettore poco informato sarebbe potuto incorrere era quello di credere che il barone e la baronessa di Forcheville partecipassero in quanto genitori e suoceri dei marchesi di Saint-Loup, cioè dal lato Guermont. Da questo lato, in realtà, non avrebbero dovuto figurare, giacché ad essere parente dei Guermont era Robert e non Gilbert. No. Il barone e la baronessa di Forcheville, a dispetto di questa falsa apparenza, figuravano dal lato della sposa e non da quello Cambremé, per via non dei Guermont, ma di Jupien, di cui il nostro lettore, meglio istruito, sa che era cugino germano di Odette. Tutta la benevolenza del signor di Charlus si riversò dopo il matrimonio della figlia adottiva sul giovane marchese di Cambremé, i cui gusti, che erano simili a quelli del barone, non avendogli impedito d'essere scelto come marito di Mademoiselle d'Oloron, non fecero naturalmente che farlo apprezzare maggiormente quando rimase vedovo. Non che il marchese non avesse altre qualità per essere agli occhi di Charlus un compagno delizioso. Ma persino quando si tratti d'un uomo di grande valore, una qualità mai disdegnata da chi lo ammette nella propria intimità e tale da renderlo particolarmente gradevole, è che sappia anche giocare a whist. L'intelligenza del giovane marchese era notevole e, come si diceva già a Féterne, dove era ancora un bambino, aveva preso tutto dalla nonna, stesso entusiasmo, stesso amore per la musica. Ne riproduceva anche certe particolarità, ma più per imitazione quelle, come tutta la famiglia, che per atavismo. Così, per esempio, qualche tempo dopo la morte di sua moglie, avendo ricevuto una lettera firmata Léonore, nome che non ricordavo fosse il suo, capii finalmente chi mi scriveva quando lessi la chiusa: «Credete alla mia simpatia vera». Quel «vera», messa al posto giusto, aggiungeva al nome Léonore il cognome Cambremé.